di fischiare? A te sto dicendo, mi hai finito? Non parli? Adesso ti faccio parlare con Mudo. Je vais lui redire, mais bon... Je suis passé par ici. 110? Di qua, come ti chiami? Avanti. Di qua, ti ho pigliato. Sì, avanti. Chi sei? Ciao, Roberto. Ma Giulio, sì. Ciao, Roberto. Con le infiglie, sì. Sì, sono in fede, ma ti ascolto molto basso, come mai giù? Perché sto facendo con un batte, con un omologato, con un microfono malissimo. 9 più 10 rispetto al solito è un po' più forte, infatti mi stavo meravigliando. No, ragazzi, tiro fuori, non c'è problema, radio 5, segnale 9 più 10, però sembrava più basso rispetto al solito, cioè sembrava, sei più basso. Con un watt solamente, per cui, guarda adesso, con un watt solamente cosa vuoi posso fare, non più di tanto, poi col microfono normalissimo, non ho omologato, per cui mi torno così. Da 9 e 10 a 9 più 20 sei salito, no, infatti mi stavo preoccupando, ho detto non è che c'è qualche problema all'antenna, stavo pensando a quello, comunque tutto a posto, dai, se così va benissimo. Ok, uno un piccolo monogatto, un baracchinetto a 4 sudi, sto usando, per cui mi va bene così. Che poc'anzi stavo parlando col continente, cioè in Alta Italia, però in FM, 9 più 30 mi hanno dato addirittura in FM, ho fatto solo, ho cambiato due parole, basta, niente di più. Ero curioso di vedere come uscivo in FM, niente di più. Ma no, invece è il contrario, in valle HF la propagazione è molto molto bassa, dove i segnali arrivavano molto più furti, li tiravo fuori con la pinza, proprio poco a poco, infatti non arrivavano segnali che arrivano oltre 9, ma arrivavano 4 o 5, perché sto facendo dei riplumi, e ho detto, strano. Il contrario invece è in 27, la propagazione è più aperta, infatti sento un po' di confusione sotto, un po' di propagazione, di stazioni lontane, è tutto un miscuglio. No, è a me che abbiamo parlato 9.30, io allora ne sentivo 9.10 più o meno, all'incirca così, si vede che la propagazione è buona dalla Sardegna verso la penisola o viceversa, non lo so, comunque al momento era così, canale, eravamo canale, sai che non mi ricordo nemmeno, vabbè comunque non fa niente, canale 23 eravamo, dai. E lo stesso, qualche settimana fa ho fatto dei bei collegamenti di notte per la tardi verso le 10, infatti c'era gente, non so quella di Amaturi, ho sentito, dice la Sardegna, che si ricordavano loro, non l'hanno mai, anche con la di Amaturi vecchi, e 27 è mai collegata a Como, tutta la parte alta di su della pianura padana, infatti dice cavolo, stranamente poi arrivava, dice sta arrivando con un bel segnale, e tra di loro a 30 km non si sentivano. Sì, ma è così, no, guarda, non ti meravigliare. Un po' di giorni fa, dai. Addirittura li ho chiamati con un watt. Un attimo, qua. In FM. Che sta arrivando con un watt, che sta arrivando qua. E mi sentivano dall'Alta Italia. Ho capito, entro tra poco. Propagazione, i miracoli della propagazione. Sì, c'è la propagazione a 9 adesso, questo di Palermo che sta chiamando, avanti Palermo? Greccio. E a Natalino Alfa 1, io sto spaventato un secondino qua perché ero su altre bande, adesso invece se c'è qualcuno su 10 per cui vi devo lasciare, ciao Natalino al volo e ciao Giulio. Ciao Roberto. Natalino, c'è anche Giulio, guarda se lo ascolti. Se non senta Giulio bisogna ci butto tutto, ciao Giulietto. Ciao Natalino, un attimo la vengo di Palermo, ciao Roberto, ci sentiamo alle prossime. Aspetta Natalino, facciamo entrare il Palermo che sta chiamando. Avanti Palermo. Buongiorno l'amico di Palermo, ma in questo passaggio guarda si è arrivato male di radio, non ho capito molto quello che hai detto, non so se tu riesci a ascoltare perché io sto usando solamente un watt di potenza, per cui vabbè vediamo se ti ha sentito Natalino, vai Natalino. Cosa? È negativo, era incomprensibile giù. Siccome sto a mangiare e a partita ma cazzotto. Riprendi tu. Cazzo grazie. Cazzo ne sai. Vabbè Natali, dai, c'è Palermo, c'è anche. Attenzione Palermo, ascolti Sassari. Un portinese, sono andati una cazzotto. Tu mi hai detto quanti che è morta la cucina. Questo è 47 anni, un marito di io di anni, cacci, cacci. Stanno parlando tra di loro e non lasciano spazio, vabbè dai, non ce ne frega niente. Vabbè, forse stanno commentando l'incendio che c'è stato in Fratelleria, non lo so, una cosa. presi, li avrei buttati io in mezzo al rovo, questi bastardi che mettono fuoco, disgraziati, di un quinto. David Gusolo, grazie, sì. David, io con Jake la voleva fare l'attrezzo. Voglio fare l'attrezzo. Natalie, mangia bene, rinforzati bene. La figa, io mi chiedo. La famiglia mia, che chiediamo che non ci dica. No. 47, morti per il fatto. 47. Ma sei cugino, deve dominare da quelle danze. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Yeah.